presenta... Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mattino, ascolta su Radio 24, Alino. E senza benzina o gasolina, soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. L'idea di sbloccare le opere pubbliche e private l'abbiamo presa noi, la rivendico. Poi naturalmente il problema è che cosa succede dopo, esatto. Perché se qualcuno commette degli illeciti, come va a casa? Corriamo sempre appresso all'ambo. Io penso che le responsabilità politiche del ministro Boschi siano quelle di aver firmato quell'emendamento, e la stessa ministro Guidi che nell'intercettazione telefonica dice domani passa quell'emendamento ed è d'accordo anche Maria Elena Boschi. Benzina. Ministro dei rapporti col Parlamento, cioè io, da regolamento, deve verificare e autorizzare tutti gli emendamenti del governo. La Tempa Rossa è un progetto strategico per il Paese e quindi lo rifermerei domattina. Cambiato il clima in questo Paese. Sentirsi dire che noi siamo quelli delle lobby a me fa, tecnicamente parlando, schiantare dalle risate. E così è un Renzi d'attacco, è un Renzi d'attacco. Cari amici, va da Lucia Annunziata in mezz'ora e dice: interrogate me, l'emendamento è mio. Cari magistrati, interrogate me. Fa un po' il bullo, fa un po' il bulletto. Non più a gas, ma kerosene. Sapete che quando è sotto attacco Renzi tatatam, contropiede sacchiano, di sacchiana memoria, ripartenze si chiamavano, non contropiede, le ripartenze sacchiane, boom, e cerca di contrattaccare. D'altronde annuncia querelo Di Maio, chiedo i danni a Beppe Grillo. Non siamo quelli delle lobby. Beh, la frase più straordinaria è un'intervista di Maria Elena Boschi alla Stampa, Ci attaccano perché siamo contro i poteri forti. Vabbè, adesso va bene tutto, ma va bene tutto. Ho detto va bene tutto. È giusto difendersi, però un governo contro i poteri forti in Italia non si vede dal 1412. Su, dai, adesso non esageriamo. Forse 1420, dai. Allora, cari amici, sono le 6:32 minuti e siamo qui, siamo qui con 24 mattino, riparte un'altra settimana. Pensate che è la 153esima decisiva di questa legislatura per abolire le province, quindi ci siamo quasi. C'è Peter Bescapere in regia, c'è Emanuele Brignoli che abbiamo sbrandato e ci terremo per almeno 8 giorni perché abbiamo mandato in vacanza Lorenzo Nespoli. È incredibile questa cosa, ci sono anche le vacanze. Anzi, roba medievale ormai. Siamo veramente... Va bene, sono le 6:32 minuti, il campionato è finito. Anche la Coppa dei Campioni per alcuni, Per Luis Adriano. Non è che... Masiello Piniglio! Sì, il campionato è finito per noi, Peter. Queste proprio le devi... Peter, queste proprio non... Queste proprio non... Peter... Proprio il campionato nostro è finito dall'inizio del campionato, non è che è finito prima di iniziare, quindi dicevo, è finito perché questi gobbi maledetti anche per quest'anno. Ma tu, Emanuela, chi tieni, tra l'altro? Ah, sei di Bergamo, giusto. Sei di Bergamo, quindi tieni l'Atalanta. C'hai mica Giannino, il famoso... Facciamo vedere subito qual è l'atteggiamento per Emanuele. Il trattamento Giannino per Emanuele, caro Peter. Visto che tiene l'Atalanta, glielo possiamo... Arriva, eh. Licenziato! Eccolo qui. Mariano Di Rolfi, ciao, come stai? È il lunedì, sai come funziona, insomma, no? Perché non porta benissimo i fidanzi. Sì. Quindi noi abbiamo vinto, avete perso, siete a 24 punti di distanza. 24? Ma guarda che ti sarai sbagliato. 24, e mancano 7 giorni. Ma possiamo andare a più 45. Beh, magari sabato andiamo a meno 21. Sabato, sabato parte il rimontone. Sabato c'è Milan Juve. Mi ha invitato ed è tecnicamente impossibile che voi agganciate la Juve. Ah, quindi abbiamo perso il campionato? Esatto, da oggi siete ufficialmente fuori dalla lotta per tutti. No, esatto, sei a meno 24 a 7 giornate. No, vedi i freddi numeri. Se anche le vinciamo tutte e esatto, tutti le perdono tutte, non possiamo non vincere il campionato. Esattamente, è incredibile questa notizia. Saluto anche Federico Novella. Eccoci qua. Buongiorno. Ti sei messo l'anima in pace. Cioè, sì, se ancora ci credevi, capisci? Sono sereno adesso perché la pace dei sensi. Esatto. Sono abbastanza sereno. Allora, l'inno della Juve che vince lo scudetto, ma non la Champions League. Questa cosa non ci hanno battuto neanche là, però. È vero, non vi hanno battuto. Si può volere tutto adesso, dai. Oddio, insomma, cioè, lì ogni tanto le partite durano 120, lo sai anche te, Mario, che insomma funziona così. Il novantesimo non ci hanno battuto neanche. Insomma, quando vuole raccontare la verità come vuole lui. Cioè, no, per gli annali non ci hanno battuto, capito? Cioè, nel tempo regolamentare, così. Allora, siamo con Mariona Di Nolfi, ricordiamo, candidato sindaco a Roma con il popolo della famiglia. Bravo. No, bravo, nel senso, bravo, sei tu. No, bravo, perché qualcuno dice il partito della famiglia. No, il popolo, no, della famiglia, popolo, no. No, partito è una parola che di questi tempi. Poi anche famiglia di questi tempi è una parola che va molto di moda, no? Nelle intercettazioni, soprattutto. Esatto. Allora, Federico, ti piace questo Renzi? Attack, Renzi, attack. Beh, è fatto così, è lui, è Renzi al cubo, è Renzi all'ennesima potenza, anche se quella frase dell'illecito non è che mi è suonata benissimo, no? Sì. Nel senso che se c'è un illecito è un problema, se non c'è un illecito non è un problema, quella non l'ho capita bene, cioè si può entrare in imbarazzo anche se non c'è un'infrazione al codice penale, no? Che è quello che è successo. No. No, ma infatti però... ha detto che la guida è stata inopportuna, credo, però vuole finire. Ma il fare il gradasso, cioè interroghino me, e questo ha detto i magistrati. Cioè non è la prima volta, anche quando la vigilessa di Palazzo Chigi venne accusata di inserire quel comma salva, te lo ricordi? Sì. Anche in quel caso lui fece da scudo umano per il giglio magico. Cioè, il giglio magico è una cosa sola ed è ancora un patto d'acciaio che ancora resiste, e quindi lui non ha problemi a prendersi la responsabilità politica. Questo secondo me piacerà a Mariona Di Nolfi, no? Renzi attack, la versione. Sì, questo è la sua caratteristica. Mi resta il dubbio del che sarebbe accaduto se fosse stato un governo Berlusconi avere il ministro che si telefonava col fidanzato dicendo guarda che abbiamo fatto passare l'emendamento. C'ho una difficoltà nel leggere proprio il contrario di quello che forse dice Renzi, cioè nel leggere tutto sommato una sostanziale benevolenza nei confronti di ciò che è accaduto, mentre poi ciò che è accaduto ha una sua cioè realtà. Dici che gode un po' più di buona stampa Renzi? Beh, non so se l'hanno intervistato Berlusconi con la stessa bonomia, diciamo. Ecco. No, perché infatti io non l'ho vista l'intervista, ma ditemelo voi, perché oggi ho letto Maria Teresa Meli sul Corriere e voglio dire, una che racconta sempre quello che succede attorno a Renzi. E dice praticamente che Luciano Annunziata l'ha messo alle corde, l'ha attaccato, l'ha incalzato. Ovviamente Luciano Annunziata ha un tono, diciamo, significativo. Ricordiamoci che il fatto in sé, lo ripeto, il fatto in sé ha una sua dato di gravità enorme, perché il ministro dello sviluppo economico che si telefona con il compagno gli dà una... notizia con quei toni, e questa cosa per la seconda volta interseca anche una l'emendamento importante opposto. Come Maria Elena Boschi. Sì, quindi c'è da dire che questa cosa adesso politico, non, voglio, non voglio difendere Maria Elena Boschi, a me non me ne frega niente, cioè, non devo difendere. No, no, no, no, non me ne frega niente, non devo difendere. Non nascondere i tuoi sentimenti. No, adesso, no, no, allora, no, no, abbiamo, sentiamo. Perché devi fare il timido, cioè, smettetela. Smettetela. Però quando dice Renzi che è il ministro per i rapporti del Parlamento, cioè se non si deve occupare degli emendamenti in Parlamento, il ministro dei rapporti col Parlamento, quale ministro se ne deve occupare? Cioè questa è la questione. L'emendamento, lei conosceva, questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere adesso, lei conosceva gli interessi che si muovevano dietro quell'emendamento, soprattutto personali, vicini al ministro Guidi? Se lo conosceva è un conto, se non lo conosceva no, e questo non lo sappiamo, non c'è chi dice che ci sono altre intercettazioni in cui sono coinvolti altri ministri, questo sarà interessante scoprirlo. Sarà interessante riscoprirlo. Sì. Bisogna capire una cosa, io ho fatto il parlamentare del Partito Democratico e per molto tempo della mia vita mi sono occupato dei conflitti di interessi di Berlusconi denunciandoli come un problema serio del paese. Qui non è un cioè qui c'è il problema vero. Che chi va al governo si fa i fatti suoi, e questa è una cosa che dal 1420. Lo so, però quando te lo mettono nero su bianco, però posso dirti una cosa: il ministro fa una cosa, che il fidanzato del ministro si telefona e insomma, questo non può non porre un problema di opportunità. E mi chiedo in Germania come sarebbe accaduto. Diciamo così, è vero che in Italia in Germania, il ministro Bosken sarebbe ancora in carica. Bosken, van der Bosken. Non lo so. Senza contare che è vero che in Italia probabilmente si sono sempre fatti gli affari loro, però Renzi sta lì proprio perché ha detto che è diverso da tutti gli altri. Bravo Federico. Io ho sostenuto Renzi per rompere queste e continua a dirlo, continua a dirlo. Da noi chi sbaglia va a casa. Ha usato questa frase, no? Questo, a me piacerebbe sapere qual è la regola, nel senso, qual è la regola per dimettersi in Italia? Devi essere indagato? Devi essere inviato cosa a giudizio? Cosa che Guidi non era, per esempio. Deve essere indagato un tuo parente? Lo zio? Deve essere indagato il padre, il figlio, la sorella, la fidanzata? Deve essere pubblicato con le telefonate, altrimenti va bene? Con le regole. Ci vorrebbe la regola. Sei venuto qua a infastidirci un lunedì mattina. Scusate. La regola c'è. E cioè? Non devi essere il PD. È molto facile. Perché il ministro Lupi si è dovuto dimettere da ministro delle infrastrutture per la storia di quello che riguardava il figlio, dove non era neanche lontanamente indagato. Il ministro Guidi. La vicenda Guidi è la vicenda di un altro ministro che ovviamente non ha copertura politica. 24 ore. Il ministro Boschi ha una cosa diversa e resiste a tutto. Diciamo, devi essere il PD. E soprattutto se sei del PD e fai parte del cosiddetto giglio magico, insomma, se sei toscano. Al di là del bullismo, al di là dell'atteggiamento che conosco bene nel mio amico Renzi, questo problema esiste e questo problema va affrontato. Allora, qui c'è Crozza che è sul ministro Guidi, sentitelo, Crozza. Povera Federica Guidi, belì che coppia, guarda che coppia, la Boschi e la Guidi. Una dicono che abbia aiutato la banca del papà, l'altra la trivella del fidanzato. Ora io dico, sembra Italia's got parent. Vabbè, la trivella del fidanzato, Vi posso lasciare, secondo voi, questo argomento senza il Brunetta del giorno? E il Brunetta che rischia di spostare... Non ci facciamo mancare niente, proprio noi, Cioè, Brunetta non ce lo possiamo perdere. Brunetta! Ma la notizia non sono le dimissioni di Federica Guidi. La notizia è che non si sia dimessa la ministra Boschi. Eccolo lì, basta, niente, basta, l'attacco è il bersaglio grosso, Maria Elena Boschi, eccolo qua. Difesa da Alessandro Milan, diciamo. Difesa per motivi abietti, diciamolo, da Alessandro Milan. Finitela, finitela. Il bersaglio grosso e non è Mariona Dinolfi, battuto. Tu non hai conflitti di interessi, Milan, hai un interesse solo, che è Marielle. La prenderei più sul generale, peraltro, l'interesse suo. Senti un po', Marione, parliamo delle cose di Roma che contano, delle cose di Roma che contano. Tu, se diventerai sindaco, abolirai la legge 194, quella sull'aborto. Cioè, voi capite... Tanto il sindaco non abolisce la legge 194. Appunto. Magari per Roma, magari per la città di Roma. Ma dovresti scendere dal... parlando di alcuni temi di questa portata negli Stati Uniti d'America con la campagna per le primarie americane, bella, Polonia recentemente si è posta questa questione in maniera seria, io dico che sono un esponente di un movimento che si chiama Popolo della Famiglia, che se fosse al potere abolirebbe la 194. Guardiamo avanti. Da sindaco di Roma, ma se certo. Vado al governo del paese abolisco la 194, perché sono contrario all'aborto, si può fare, cioè è una cosa che si può essere per il diritto alla vita e contro l'aborto. Sì, sì, sì, ma tu saresti come Trump, che ha detto, poi ha parzialmente smentito, punirei in quel caso le donne che ricorrono all'aborto? Non penso che bisogna andare a punire le donne, penso che bisogna punire chi pratica l'aborto. Eh beh, sono in due, il medico, se vuoi, tecnicamente è anche la donna. Io credo che un medico che fa il giuramento di Ippocrate, come una volta era scritto nel giuramento di Ippocrate, non può provocare la morte di nessuno. Poiché per me quel bambino in pancia è un essere umano, se provoco la sua morte, per me non è conseguenza. Ma come ben sai, la legge 194 consente alle donne di abortire, perché sennò alle donne che rischiano da portare avanti una gravidanza, una sofferenza psichica e fisica. Quindi salvi un bambino e la donna chi se ne frega. Quest'anno sono stati provocati 100.000 aborti. Francamente, 100.000 bambini in più a questo paese avrebbero fatto assolutamente comodo, peraltro. Comodo, perché paga, è un paese, per pagare le tasse. È un paese che ha, no, perché è un paese a natalità zero, è un paese che ha un figlio per donna. Ho capito, ma la donna, tu difendi il bambino e della donna non te ne frega niente. Io sono un cittadino italiano contrario alla soppressione dei bambini in terra. Va bene, e ripeto, è la donna? Cioè, non pensi alla donna? Penso che la donna debba essere madre, dunque con... fatte salve i casi straordinari, possa assolutamente valutare che avere un quindi figlio... Quindi non ha il diritto di scelta. Ma sarà una scelta sua. Io credo non si possa scegliere su terze persone. E per me quel bambino è una persona. Ma non pensi che... E soprattutto non puoi avere comunque... diritto di vita o di morte su un altro. Ma non pensi che oggigiorno, se vieti l'aborto a una donna, uno riesce ad abortire in altri modi, in maniera clandestina. Magari morendo, sia ma la donna cosa vuol che dire? Il bambino. Io tendo a pensare che ciò che è male deve essere vietato. Ma dopo, se ciò che è male viene fatto comunque nell'illegalità... Però, è un po' da stato etico questo. Io ho idea di qualcosa che è bene e qualcosa che è male. Uccidere, secondo me, è male. Uccidere. Quindi tu ti adopererai perché negli ospedali romani si pratichi l'obiezione di coscienza? Per esempio. Io sostengo assolutamente i medici obiettori di coscienza, sì. Però sostenerli... Diritto totalmente all'obiezione di coscienza, dato il diritto... che viene salvaguardato dalla legge della Costituzione. Sostenerli è un conto. Un conto è dire, che ne so, mi assumerò obiettore di coscienza degli ospedali, sceglierò. Però non è che uno sceglie che c'è scritto sopra obiettore di coscienza. Dico che se un medico fa obiezione di coscienza rispetto all'aborto, non solo a tutta la mia comprensione, a tutto il mio sostegno. Va bene. Questa è la posizione di Marione. Dobbiamo andare al traffico. Federico Novella, sei stato congelato da questa. Sei stato un sindaco Savonarola. Adesso hai il tuo momento per pensare una dura replica e poi lo stronchi al rientro. Va bene, Taschi, si scherza. Traffico. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. Ma non si dovrebbe dimettere anche la Maria Elena Boschi? Mi sembrerebbe opportuno, no? Alla faccia del conflitto di interessi. Bella segreteria! Alessandro Milan, ma come te sei consacchia? Dai Milan, riprenditi e compra la bici, che il parcheggio non ti serve più. Ma come? Ma pur di avere una poltrona a casa, stiamo demansionando l'Italia? Fra poco mettiamo i pasticceri a fare i primari e i medici li imbarchiamo nell'Amerigo Vespucci. Basta. Ciao Alino. Buongiorno Milan, ma non può chiedere agli amici di Bertone, quelli che pagano a sua insaputa l'attico, se pagano anche a loro insaputa il mio mutuo? Tanto c'è rimasto poco, cioè molto poco rispetto ai 422 mila euro lì, quello che è. Diglielo Milan, fammi un piacere a Bertone. Non lo so, questa di Bertone, Marione l'ha difeso, in un'intervista sul Libero, l'ha difeso l'attico di Bertone, inchiodato alla croce. Ma sì, bisogna vedere, insomma, quei soldi da dove sono arrivati. Sì, è abbastanza chiaro, a sua insaputa dal bambino Gesù. Poi sul fatto che Cardinale debba comprare, non è mica comprato, mica suo. Ha solo ristrutturato 700.000 euro per ristrutturarlo. È un comodato. Ma scusa, ma tu da cattolico, Marione, quando il cardinal Bertone tira fuori 300.000 euro lui per ristrutturarli, di risparmi, ma non ti fai una domanda a dire: ma com'è possibile che un cardinale, cioè, ti piace una chiesa in cui un cardinale ha 300.000 euro da parte? A me non piace la caccia alle streghe attorno a un... Non è una caccia alle streghe, è una domanda che uno si fa. C'è un reato e mi si dice che lì c'è un reato compiuto. Ma ripeto, no, ma ti piace chi conosce i palazzi intorno al Vaticano? Ho capito. Ai cardinali, ma la domanda è un'altra. Facciamo delle domande. Ma la domanda è un'altra: se ti piace un cardinale che ha 300.000 euro in banca. Insomma, non mi sembra una cifra spropositata da dire, oddio, il segretario di Stato Vaticano Io non ce l'ho 300.000 euro in banca, ma io non ce l'ho. Spero che a 70 anni, quando avrai fatto il segretario di Stato di un paese, avrai 300.000 euro. Mi sembra, mai dici, dai, si è fatto 40 milioni di euro. Mi sembra una cosa. Vabbè, sono che la di una vita. Uno magari ne ha da parte altri. Ma vi do una notizia: poi sì, ci sono una quarantina di cardinali che hanno fatto case più grandi, abitazioni più grandi, perché le abitazioni intorno al Vaticano sono quelle. Ce n'è una bellissima. C'è una frase bellissima di qualcuno: ha detto si può girare in bicicletta nelle Torino. Quei palazzi sono fatti così. Sono fatti così. C'è il record sul circuito. Il record sul giro del cardinale Cegarai. Lui dalla cucina in salotto in Vespa, ci va in Vespa. Esatto, ci sono i campionati vaticani del record sul giro. C'è da dire questo, a me non piace quelli che dicono ma perché i cardinali devono vivere in appartamenti grandi? Quella mi sembra una boiata, perché non è che puoi fare monolocali in Vaticano, sono come ambasciatori, quelli sono, l'hanno costruiti un po' di tempo fa. Però comunque sia che nei tempi di Papa Francesco, no, che vive in 70 metri quadri, che ci sia un cardinale che ha migliaia di soldi in banca, è un po' singolare. Stona anche questo. Marione, se diventerai sindaco, se diventerai assessore, non lo so, non fare come ha fatto l'assessore Rozza a Milano. L'assessore, che ha fatto l'assessore, ma dai, avrei visto la foto. L'assessore Rozza è quella che stava pulendo la città, ha trovato una macchina in divieto di sosta e l'ha pitturata di bianco così per sfregio nei confronti di questa macchina in divieto di sosta, no? Ma davvero? Ma sì, poi ha dovuto chiedere scusa. Senti qui, ha dovuto chiedere scusa. Il gesto era dimostrativo, non era un gesto, perché se volevamo fargli male alla macchina ci andavi o con la bomboletta o con la chiave. La macchina era appoggiata al muro. Cioè, ma un assessore di Milano che dice se volevo fare una cosa grave facevo con la chiave. Ora io dico una cosa, ma ieri anche bucare le gomme. Assessore ai lavori pubblici, la giunta Pisapia ha dipinto una macchina di vetro di sosta perché stavano pulendo. Adesso ha chiesto scusa, ma io dico, ma quando l'ho visto ho detto: ma scusate, ma se uno per contrappasso per gli errori dei politici, perché vi mettono le tasse al massimo, vi alzano l'IRPEF, vi mettono le tasse dei rifiuti al massimo, sono inefficienti, ma per contrappasso noi cosa dovremmo fare alle macchine degli assessori? No, io non lo dico, perché poi non vorrei qua la Digos fuori che mi arresti con le manette. Non. Ma cosa dovremmo fare noi, secondo? Ma caro assessore, la radio 24 dietro la radio di sovversivi. Ma che ti sovversivi? Ma che ti sovversivi? Istigatore, istigatore. Ma dico, ma voglio dire, c'è una macchina in divieto di sosta, pagherà la sua bella multa e basta. Cioè, gli devi anche imbrattare la macchina, assessore al comune di Milano. È stato uno slancio così d'entusiasmo, sai com'è. Lancio. Poi nel PD sono abituati a coprire con una mano di vernice le magagne. Ma il PD, no? Questo, davvero? Sì, sì, l'assessore. Tu non lo farai, vero Marione? Questo no, no, no. Poi io non ho la macchina. Una per esempio, va in un ospedale ad abortire, che è un dramma, non è che gli buchi le gomme. Buchi le gomme. La convinco a non abortire. Beh, adesso la convinco a non abortire. Adesso. Ti giuro. No, perlomeno, ti giuro, perlomeno addirittura. Cioè, tu in 10 minuti ce la faresti. No, no, no, lui ci mette 9 mesi a convincerla. Nove mesi. Dove. Capisci? Fino no, a finché di, non di nasce. La verità, tu avresti gli argomenti per convincerla. Io penso che se puoi scegliere tra far nascere tuo figlio e non farlo nascere, alla fine... Se qualcuno ti parla davvero, puoi scegliere di farlo. Ma sono d'accordo con te. Qualsiasi condizione. Se arrivi a non farlo nascere, vuol dire che sei talmente disperata, in difficoltà. O forse fai una valutazione superficiale. Superficiale. Perché 100.000 aborti l'anno, 100.000 aborti. Non sono tutti per cause gravi. Questo sicuramente. Io però vi devo lasciare con quello che è successo ieri. Un fight, un contest incredibile. Se non avete visto Le Iene, vi siete persi Filippo Roma, che proprio faceva una battaglia di catch in 2 round col senatore Formigoni, che a un certo punto gli ruba il microfono. Ma lei vuole una denuncia per rissa? No, è buono. E vi assicuro che sono stati 10 minuti con Filippo Roma con la faccia contro un'inferriata con Formigoni che gli... Ma vi giuro, una cosa indicibile. Le conviene mollare. Attenzione, non danneggi il gelato che sta sopra. E voi vi immaginate due che si contorcono uno sull'altro. Mi dia il microfono, lei è poco agile. Venga qui più agile, più forte. Ah, straordinario. Cercatevelo su online, perché questa Formigoni Filippo Roma è imperdibile. Allora dai, ci fermiamo qui, ringraziamo Mariona Dinolfi, il popolo della famiglia, candidato sindaco a Roma, e novella alle 9 ovviamente con Mattino 5, sempre puntuale, tra poco, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E va bene, strada in diretta la recupereremo alle 7.45, ce ne faremo una ragione. E allora, cari ascoltatori, siamo qui a leggere i giornali. Vi ricordo che la 153esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già ben cominciata. E voi che fate? Che fate? Siete lì ancora ad attardarvi perché non lo so, la Juventus ha vinto il campionato? Sai che novità? Dai, forza, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, siamo a lunedì 4 aprile e intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì è dedicata alle tasse sulle imprese. In Europa riparte la gara delle aliquote, questo è il titolo di prima pagina. Cameron punta al 17% per la corporate tax. L'anno prossimo IRES al 24%, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il Corriere della Sera, e tra poco lo vedremo, i conti segreti dei 12 leader, i soldi a Panama del clan Putin e dei vertici cinesi. Soldi scoperti a Panama, ci sono anche dei nomi italiani. Anche Repubblica, Panama, ecco i conti segreti da Putin ai big del pianeta. Mentre la vicenda delle dimissioni del ministro Guidi e le polemiche successive, La Stampa, al piano di Total sul petrolio lucano. Per il giornale La grande balla dei poteri forti, il caso petrolio. Anche il giorno petrolio, Renzi sfida i PM. Il messaggero, Renzi, l'emendamento è mio.